apagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Tante volte tutti noi ci chiediamo cosa sarebbe accaduto se quel particolare giorno, quel particolare momento, in quella particolare situazione, avessimo fatto una scelta diversa rispetto a quella che abbiamo fatto. A volte sono anche scelte semplicissime, sono momenti assolutamente banali. Cosa sarebbe accaduto se nell'estate del 1983, invece che accompagnare una mia cugina che doveva firmare un contratto alla RAI, e me ne fossi andato a passeggio per Roma, che io attraversavo come in belle provinciale in una mattinata d'estate, non avrei incontrato una signora capostruttura che ho imbambolato con un'infinità di panzane sulla mia preparazione professionale, e non avrei prodotto una finta lettera di un finto zio arcivescovo, non avrei fatto il primo contratto alla RAI, non avrei immaginato che nella vita la radio fosse il mio mestiere e oggi non sarei qui a parlare con voi. Però magari passeggiando sul Lungotevere avrei incontrato la persona della mia vita, o avrei fatto quello che avrei dovuto fare, sarei partito per la Spagna dove ho vinto un concorso all'università e oggi sarei un soddisfatto professore di italiano a Barcellona, avrei una moglie barcellonese, farei la movida, mi farei dalla mattina alla sera le peggiori sostanze allucinogene per dimenticare la distanza con la mia terra natale. Questo e tantissime altre cose. Beh, la domanda vi faccio questa mattina è proprio un gioco che vorrei fare con voi. Considerate alcuni momenti fatali della vostra vita che vi hanno messo di fronte a un bivio, quando una scelta poi ha cambiato radicalmente. Avete conosciuto la persona che dovete conoscere, avete fatto una scelta radicale per la vostra vita, o perlomeno avete fatto lo sbaglio che ha segnato la vostra esistenza. 800 24 00 24, ma al solito il numero, ma per riuscire a farvi entrare più nell'argomento partiamo da alcune citazioni prese da... Esiste una letteratura infinita, esiste proprio un genere di narrativa legato al cosa sarebbe stato se, legato agli episodi della storia, cosa sarebbe successo se Napoleone fosse stato un trans, non so, delle cose paradossali che però avrebbero potuto cambiare la nostra storia. Io parto esempi semplicissimi, probabilmente alla portata di tutti. Un film, Sliding Doors, lo conoscerete, un film abbastanza noto, del 98, parla una storia a doppio esito di una ragazza. Hélène è una donna che lavora nelle PR, ha un fidanzato, si chiama Jerry, ha avuto una situazione professionale brutta, un giorno la licenziano dal lavoro, corre verso la metropolitana, ma nel momento in cui sta per entrare nella porta alla metropolitana la sua vita potrebbe prendere due pieghe diverse. È strano come nessuno parli in metropolitana, vero? In effetti è raro che io prenda la metropolitana, ma ho negli ascensori. Negli spazi chiusi tutti stanno zitti, come mai? Forse chi va in metropolitana o in ascensore lo prendiamo per un potenziale psicopatico o un ubriacone e ci chiudiamo e fingiamo di leggere un libro. Ha una grossissima macchia di tè sul libro. Senta, io non la prendo per uno psicopatico, voglio solo leggere il mio libro. Oh, la capisco, le domando scusa. È che sono di buon umore oggi, assolutamente per caso, perciò io mi scusi. Nella prima delle versioni della storia, Hélène prende la metro, conosce un... signore affascinante, torna a casa prima del tempo e ha una brutta sorpresa. Trova il fidanzato a letto con un'altra donna. Non dovresti interromperti così. Una donna si smonta per 3 giorni se tu fai così. Lei chi è? Lei è Lydia. Sei un farabutto! Un farabutto! Un farabutto scappatore buono a nulla! Torno all'improvviso e ti trovo immerso fino alle palle in Lady Smorzacandela Godiva! Ahimè, è una dura realtà, scopre che il fidanzato se la faceva con la sua ex, Però non tutto il male viene per nuocere, quel personaggio affascinante che aveva conosciuto in metropolitana diventa l'uomo con cui lei riesce a rifarsi una vita e probabilmente vivrà felice. Seconda ipotesi, sempre entra in prova a entrare in quella metropolitana, ma ahimè succede un fatto, viene scippata e quindi perde la metro. Si informano i signori viaggiatori che a causa di un deragliamento alla stazione Victoria i treni subiranno un forte ritardo. Consigliamo di trovare un mezzo di trasporto alternativo. No! È tutto a posto? Oh, è una gran brutta ferita. Forse ci vorranno dei punti. Beh. Viene naturalmente ferita, soccorsa, perde molto tempo, quindi arriva molto più tardi a casa. Torna a casa più tardi, naturalmente il tradimento adulterino è stato già consumato, quindi trova felicemente il fidanzato che si fa la doccia, si consola, fa una vita terrificante, ma normale, banale, nell'inconsapevolezza di avere vicino un traditore compulsivo, si affaticherà tantissimo, ma non saprà mai comunque che l'uomo che le è accanto in realtà ha così poca considerazione di lei. Ci sei? Helen, sei tu? No, sono la tua manza vogliosa. Sei appena alzato, pigrone, che non sei altro. Vedi, stanotte non ho dormito molto bene. Così, quando sei andata via, mi è arrivata una grossa botta. Botta di sonno. E stavolta l'ho presa in pieno, influenza. Comunque, che ci fai a casa a quest'ora? Che ti è successo? Vedete come compensa, ahimè, il succo del frutto proibito che ha appena assaporato pochi istanti prima con apprensione nei confronti della donna ferita che troverà poi un lavoro come cameriera, farà una vita forse assolutamente schifosa, però questa è la seconda scelta. 800240024, quali sono state le vostre porte scorrevoli, qual è stata la vostra scelta e qual è il rimpianto di scelte non fatte, qual è la soddisfazione delle scelte fatte. Sentiamo Francesco. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Sì, io ho avuto un episodio, mi è capitato, che ho sempre pensato abbia influito insomma sulle mie vicende, l'ho considerata la mia sliding door. E niente, io era circa 7 anni fa, avevo appena terminato l'università, avevo fatto un anno di lavoro in un'azienda che mi stava per mandare all'estero, avevo deciso di prendere un giorno di ferie per risolvere delle questioni mie, ma ero molto indeciso, dico vado o non vado al lavoro, dopo chiamate, guarda, ho da fare, non ci vengo. E avevo in piedi una storia con una ragazza che ero sul punto di chiudere. E a seguito di questo giorno di ferie ho avuto un incidente d'auto, ero in motocicletta, in realtà mi sono fatto male ed è accaduto che sostanzialmente tutto quello che avevo programmato non si è poi verificato, perché sarei dovuto partire per l'estero e questa cosa non è più avvenuta perché chiaramente non ero in condizioni di poterlo fare. La storia che volevo chiudere è che quindi insomma avrebbe lasciato campo libero anche sentimentalmente, non si è chiusa successivamente, insomma, mi ha frenato da quel punto di vista, insomma, da una prospettiva di carriera all'estero che si era profilata all'orizzonte, mi sono ritrovato poi a fare un altro tipo di vita e a tenere in piedi una storia per 2 o 3 anni che poi insomma lei si è mai chiesto durante la vita che come poteva è cambiare la sua vita se invece la scelta fosse stata diversa, non ci fosse stato l'incidente e via dicendo? Sì, sarei stato forse, come diceva lei, un expatriate, uno che comunque sarebbe stato fuori, perché mi ha, diciamo, ecco, tante altre occasioni ci sono state. Sì, anche io in quel periodo non sognavo altro che andarmene via dall'Italia, proprio come il figlio di Celli, volevo proprio andarmene. Anche io, ma il punto è che di tutte le occasioni che poi costellano, no, la vita di chiunque, e alcune si colgono e magari non ce ne rendiamo conto e altre no. Quella lì per me è stata una cosa invece, una sliding door, perché in un momento di particolare accelerazione, no? Quando ti senti che puoi sostanzialmente, che puoi dare la svolta, che puoi effettivamente per una svolta e decidere veramente quello. È un'occasione in cui hai la possibilità di decidere quello che ti capita. È chiaro, Francesco. Salute e sentiamo Assunta. Assunta, buongiorno. Buongiorno. Senta, io avevo 20 anni, ero innamorata e mio marito mi ha chiesto di andare a vivere con sua mamma. Io avevo la pelle di salame davanti agli occhi, questo l'ho capito col senno di poi, e innamoratissima ho detto di sì. Però è stata una decisione che mi ha cambiato completamente, ha cambiato completamente la mia esistenza. Cioè questo, è diventata la schiava della suocera? No, la schiava della suocera no, perché io devo dire comunque che mi ha insegnato molto, mi ha insegnato tanto, però mi ha tolto anche tanto. Schiava non devo essere sincera, no. Però perché certo è spento? Che non è stato, il mio non è stato un matrimonio. Il mio è stata una convivenza. Io mi sono sempre sentita sposata con mia suocera e ho sempre convissuto con mio marito per 30 anni. Signora, non so che dirle, la porta scorrevole poi qual è stata? Il giorno che le ha detto di sì, ma aveva alternative, perché ci resta sempre un'alternativa. Ma io ero innamorata, quindi l'alternativa non l'ho vista proprio. E quindi lei, signora, si è data la zappa sui piedi, non è che aveva alternative. Mi sono data la zappa sui piedi da sola. Lo so, si consoli, okay. Però di vita ce n'è soltanto una. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Nicoletti, lei ha affrontato un argomento che dovremmo stare qui anni a parlare. Sì, però siamo sintetici, dica la sua porta certo. Girevole. Naturalmente i momenti, diciamo, variabili sono infinitesimali, anche in questo momento. Se io invece di voltare da destra voltassi a sinistra, cosa succederebbe? Avrei uno schianto in diretta, un grande scoop. Esatto, ma l'argomento, diciamo, a mio parere è esclusivamente personale, di conseguenza se non avessi affrontato quella ragazza a petto pieno e invece fossi stata a casa, cosa sarebbe successo? Detto questo, una frase può riassumere tutto quanto, che un battito d'ali di una farfalla dall'altro capo del mondo crea un uragano da quest'altro, quindi siamo tutti parte di un insieme di azioni non fatte o fatte, tutto qui, questo è il mio pensiero. Ecco, grazie Paolo, lei mi dà perfettamente il destro però per introdurre l'ospite che silenzioso questa mattina prendeva appunti al mio fianco, perché ci interessa a questo punto avere un parere più illuminato, perlomeno un ordine di riferimenti che vada oltre il semplice racconto autobiografico dei nostri ascoltatori. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Un filosofo della scienza che spesso ascoltate, quando passa per Roma non perdo l'occasione di trascinarlo in studio, di fronte a questo problema antico come antico la maniera di porsi domande e provare a darsi risposte da parte degli uomini, cosa sarebbe successo se in quel momento non fosse accaduta quella cosa, non avessi fatto questa scelta. Siamo noi padroni delle nostre scelte, esiste una sorta di disegno misterioso, sottile, superiore che sovrintende a tutte le nostre scelte. Questa consapevolezza che non siamo mai completamente padroni delle nostre scelte e delle potenziali conseguenze che le scelte comportano, è la difficoltà che l'umanità ha sempre avuto di maneggiare quello che nel senso più generico del termine si chiama caso. E il caso è quello che noi studiamo con le leggi della probabilità, è il tentativo di avere una percezione razionale e oggettiva del rischio che nelle nostre decisioni quotidiane e intuitive in realtà razionale non è. Però una cosa anche dalle testimonianze che abbiamo sentito fino qui emerge chiara, verrà emersa anche chiara nel 600 quando Pascal, ragionando tra teologia e gioco d'azzardo, spiegava molto bene che le nostre scelte sono riqualificabili nei termini di una scommessa. Noi ogni volta che decidiamo, dalla cosa più importante della nostra vita alla scelta, come diceva l'ascoltatore di prima, apparentemente più insignificante, stiamo facendo delle scommesse. Dove... Non esiste mai una probabilità calcolata in termini scientifici per una scelta, c'è sempre delle parti improbabili che non potremo mai calcolare. Esatto, nelle conseguenze soprattutto, però si può tentare di massimizzare le utilità e minimizzare i rischi, questo sì. Il problema è che la nostra percezione del rischio in pochissimi casi è effettivamente una percezione razionale e questo gioca molto nella difficoltà di calcolare. La signora dagli occhi foderati di salame dice ero innamorata, lei sapeva perfettamente che andava in un triangolo maledetto fra un un uomo che era indissolubilmente legato alla madre si andava a infilare in un inferno. Si giustifica dicendo ero innamorata, quindi lei aveva già calcolato che la scommessa sarebbe stata quella, non so, di recuperare il fidanzato o che la suocera schiattasse prima del tempo, invece no. Sai, dipende anche molto dal peso che diamo alle argomentazioni, ai rischi e alle utilità. Allora, l'aereo che da Catanzaro mi ha portato a Roma, perché io l'ho preso? Non ho forse valutato che avrebbe potuto precipitare? Evidentemente sì, ma più o meno consapevolmente ho anche dato peso al fatto che la percentuale di incidenti aerei è assolutamente minima e quindi l'utilità di arrivare qui in modo comodo, confortevole e rapido valeva era molto maggiore del rischio basso e per cui ho preso l'aereo. In ogni decisione noi ci comportiamo in questo modo, pesando in modo più o meno consapevole, più o meno razionale, rischi e utilità delle nostre scelte. E adesso ti leggo qualche messaggio che sta arrivando su Facebook, poi cominciamo a sentire gli ascoltatori, continuiamo a sentire gli ascoltatori. Allora Emiliano dice: i nuovi vagoni della nuova metro A a Roma, immagino, sono più dure da aprire a mano rispetto a quelle vecchie delle vecchie carrozze, quindi pensa quante donne oggi non scoprono più le corna. Lui attribuisce comunque alla facilità di aprirsi o chiudersi delle porte scorrevoli la possibilità di scoprire dei lati oscuri della propria esistenza, quindi cambiare velocemente, dare dei correttivi alla propria esistenza, modificare un rapporto sentimentale che non appoggia su basi concrete e via dicendo. Come vedi, anche qui c'è una circostanza di calcolo. Manuel: non oso pensarlo perché la possibilità di non avere più la mia bambina è terribile, preferisco che tutto sia andato così senza cambiare nulla. Questo probabilmente preferisce non sapere. Le due ipotesi della protagonista di Sliding Doors è, dice, scoprire subito qualcosa, avere un dolore ma cambiare vita, ovvero una vita non sapendo che in realtà si vive sull'ambiguità o sull'inganno, considerato che poi l'inganno e l'ambiguità fanno parte delle condizioni di vivere, quindi tutti sappiamo che una percentuale di ambiguità e di inganno fa parte delle nostre vite affettive. Floriano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ecco, io volevo raccontare appunto la mia Sliding Doors, il momento in cui ho scelto l'università, perché come si sa, no, spesso si è indecisi nel momento in cui si va a scegliere quella che sarà il nostro futuro e quella che è la facoltà. Io un giorno mi decido e vado a fare un giro e scelgo una strada piuttosto che un'altra. Lungo quella strada incontro due miei ex compagni di scuola e loro mi dicono: guarda, noi ci iscriviamo ad informatica. E allora ho detto: mi iscrivo anch'io. Sicuramente, se non li avessi incontrati non avrei fatto quel percorso universitario. E a cosa si voleva iscrivere? Beh, io ero a tutt'altra cosa, scienze politiche. Non avevo le idee molto chiare. Era la facoltà degli sfigati allora, come oggi scienza della comunicazione. Ha fatto bene a fare informatica, quindi sì. Ha fatto benissimo. Melog 2.0. Aiutami, Lola. Tu non c'eri, io ho mandato tutto all'aria. Ho incasinato tutto, sono un povero stronzo. Calmati. Oddio, Lola, quella mi fa pezzi, mi ammazza, morirò. Ma piantala, mi stai spaventando. Che succede? Lì non c'era niente, non c'era una cabina telefonica, niente. Non potevo neanche chiamare un taxi, niente. Così ho preso la metropolitana. Nel vagone c'era un barbone che non so come è caduto. All'improvviso sono saliti i controllori, sono sceso come faccio sempre, un vecchio istinto. La sacca. La sacca. La sacca. La sacca. La sacca. La sacca. La sacca. La sacca. La sacca. La sacca. Da questo episodio nascerà la trama di Lola Corre, un altro film del 98, la storia di questa giovane berlinese che deve correre affannosamente per la città alla ricerca di 100.000 marchi che il suo ragazzo aveva lasciato dentro la metropolitana. Le accadrà di tutto, anche qui è una storia con vari esiti, potrebbe averla trovata, non averla trovata, essere uccisa, essere in mezzo a una rapina, essere colpita, tutta un'infinità di storie parallele che si intrecciano in questa corsa disperata attraverso Berlino, appunto, di Lola. Su Facebook mi stanno riempendo la pagina, visto che questo è un argomento molto legato comunque all'inconsistenza corporea del presentarsi in rete, quindi il fatto che ci si possa più liberamente raccontare ciò che della propria vita non solo è accaduto ma sarebbe potuto accadere. Lili dice: 3 anni fa ho visto per strada il fratello del mio ex marito, il primo pensiero è stato quello di cambiare marciapiede, poi invece dopo il zigzag l'ho salutato, mentre pensavo ironicamente e non a che suo fratello mi ha fatto perdere 3 anni di vita sana e che lui e tutta la sua famiglia avrebbero potuto ripagare del tempo perduto. Vabbè, poi non so come va a finire. Poi c'è: se fossi rimasta, Giulia, a spinare birre in Germania, forse sarei soltanto molto più grassa. Poi un'altra persona dice: sta aspettando la lettera di licenziamento e sta pensando che forse si fosse comportata diversamente, questa lettera non starebbe per arrivare, e via dicendo. Vediamo un po' di ascoltatori. Mauro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sintetici intanto nelle proprie storie. Sì, intanto la ringrazio perché questo tema a me è sempre venuto in mente pensando alla mia vita, come tutta una serie di bivi. Però il più importante risale tra la prima e la seconda. Io ho avuto una vita triviale, tutti trivi, chissà perché, prego. Bivi, forse trivi, sì. Comunque, tra la prima e la seconda superiore, eravamo 21 classi allora nella nostra scuola in prima, quindi ci fu una falcidia di bocciature. Riunirono i capiclasse delle varie classi per vedere tra i ragazzi rimasti di formare dei gruppi un po' più omogenei. Allora ebbero questa bella idea. Io mi guardai negli occhi con il capoclasse di un'altra classe e decidemmo, senza conoscerci, non ci eravamo mai visti, di mettersi nella stessa classe. Ebbene, quella persona è diventato il mio migliore amico, il mio socio in affari. Io ho tenuto il battesimo i suoi figli, lui i miei. In quella classe dove ci mettemmo insieme è capitata la donna che diventò poi mia moglie, con cui feci 3 figli, e se io avessi scelto un'altra classe non so cosa sarebbe successo, perché oltretutto le classi erano anche divise su 3 sedi diverse dell'istituto, sarei proprio finito in un'altra sede, quindi forse non li avrei nemmeno conosciuti. E la mia vita da allora, questa gente, queste persone da 35 anni mi accompagnano a diverso titolo, è stata proprio il mio bivio fondamentale. È chiaro. Sergio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. No, il mio caso è un po' da in salsa di film di Carlo Verdone, perché aspettavo una borsa di studio Erasmus per l'Olanda, per Maastricht, e quando ha chiamato l'università, ha chiamato a casa, ha preso la telefonata a mia madre, la quale è un po' come la sua Lella, in sostanza me l'ha detto circa una settimana, 10 giorni. L'ha fatto apposta, perché se lei da film di Verdone non voleva privarsi del suo cocco di casa, quindi ha finto di non aver capito la telefonata, è chiaro? È possibile, se non che presentatomi in ritardo all'università, rimaneva un buco soltanto all'università di Glasgow, dove non voleva andare nessuno, così ha incacciato me e da lì ho conosciuto poi una ragazza francese con la quale poi ho iniziato a vivere, a avere due splendidi bambini, e oggi non posso fare a meno di pensare, quando vedo mia mamma e ci siamo tutti in famiglia, di vedere che comunque tutto quello che oggi la famiglia, la casa, i figli eccetera nascono da questa sua distrazione in sostanza. Quindi lei è andato in Scozia, lo ha conosciuto una donna francese, sì. Ha iniziato un'altra vita, un insieme di incroci multietnici meravigliosi che hanno determinato la sua felicità, la sua vita di adesso, grazie, esatto, a una scelta. Esatto. Stefano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora, una delle mie porte scorrevoli potrebbe essere stata la scelta del lavoro. Scelta del lavoro reale, che è stata completamente diversa dagli studi che io ho fatto di chimica. È stata una E invece scelta... che lavoro fa? E invece l'altra possibilità sarebbe stata quella di fare veramente il chimico. Ma se invece cosa fa? Cosa fa adesso lei? No, io adesso lavoro in un settore commerciale di un'azienda farmaceutica, per cui io il chimico nella realtà non l'ho mai fatto. Però delle attinenze. Sì, ci sono delle attinenze, però è un lavoro completamente diverso. Ma comunque la cosa che io volevo evidenziare, al di là di questo aspetto, è che la differenza con la finzione cinematografica, noi non sapremo mai dall'altra parte che cosa ci sarebbe stato. Beh, certo. A meno che un giorno si riesca a inventare la macchina delle vite parallele, come Ritorno al futuro, che spazia nella nostra vita passata, e potremmo vedere cosa sarebbe accaduto se nostro padre non avesse conosciuto nostra madre. Noi probabilmente nemmeno saremmo mai esistiti, come il protagonista appunto di Ritorno al futuro, che se cambia il passato, come in tutti i film di fantascienza e di ucronia, che è appunto il genere che attribuisce alla storia percorsi diversi a seconda di alcune scelte, e ci saremmo lentamente dissolti e scomparsi. Stefano Morigi, filosofo della scienza, come vedi abbiamo suscitato un principio di riflessione sulla propria esistenza che oggi è così raro. C'è una riflessione che emergeva dalle testimonianze che hai raccolto, e che la gente si sorprende del fatto che l'improbabile non sia impossibile. Cioè, le cose a cui noi attribuiamo in maniera più o meno razionale una probabilità minima, non è detto che non accadono, possono accadere proprio perché sono improbabili. possono accadere con una probabilità più bassa, ma possono accadere. Il calcolo delle probabilità, la teoria delle decisioni razionali, questo ci insegna il fatto che noi viviamo in un mondo compreso tra 0 e 1, cioè tra l'impossibilità degli eventi, 0, e la certezza dell'accadimento degli stessi, 1. Noi viviamo lì nel mezzo. Perché è uno spazio indefinito, ma è uno vastissimo. Spazio indefinito, si chiama tecnicamente la logica dell'incertezza. Noi dobbiamo cominciare ad abituarci a vivere nell'incertezza, a pesare i rischi, a tentare di massimizzare le utilità delle nostre scelte, e non a caso molte delle testimonianze riguardano i fatti di cuore. Ci sono anche casi storici piuttosto noti in cui si è tentato di razionalizzare quelle che potremmo definire le volubilità del cuore, che poi sono le scelte della propria donna, le scelte che poi possono configurarsi in un matrimonio, che condizionano la vita. Prima ho citato l'Ucronia, c'è uno di questi casi, queste ipotesi assurde: se il naso di Cleopatra fosse stato un centimetro più corto, cosa sarebbe accaduto oggi della storia dell'umanità? È una complessità che andrebbe gestita, ricalcolata sulla base dei materiali a disposizione. Ma prova a pensare semplicemente: quella che sposerò è la donna giusta? Qual è la donna che devo sposare? Ti faccio tre casi molto rapidamente. L'8 aprile del 1779 Benjamin Franklin consigliava a suo nipote quanto segue: di annotare tutte le ragioni, i pro e i contro, in un foglio su due colonne opposte, di fare quella che lui chiamava un'algebra della morale, e quindi di valutare e di scartare secondo utilità e rischi. Dice: se non farai così, guarda che non ti sposerai mai. Secondo caso, Charles Darwin, come tu sai, realizzò un foglio, lo divise a metà e scrisse da una parte Mary, mi sposo, dall'altra parte Not Mary, non mi sposo, e ha cominciato a elencare le ragioni per cui valeva la pena sposarsi, le ragioni per cui non era il caso di sposarsi: i figli sono una responsabilità, una perdita di tempo, non mi fanno studiare la sera. Poi comincia dall'altra parte: tutto sommato la moglie può essere più confortevole, più calda di un cane sul salotto, mi può accudire di notte, e se sto male io poi ho molti problemi. Alla fine sceglie Mary e ha avuto ragione. Keplero, scusa, ma io che mi sono fidanzato in una sera d'ubriachezza con mia moglie, sospendo il giudizio, Gianluca, ma comunque ti è andata bene, e quindi evidentemente l'ubriachezza ti ha dato quella lucidità che ti ha consentito di fare quella scelta che la lucidità diversamente non ti avrebbe potuto dare. Un altro caso interessante è quello di Keplero: era rimasto vedovo, aveva dei figli, doveva fare il matematico per mantenersi, e in un bellissimo testo che si chiama I sonnambuli, guarda caso, il sonnambulo è chi va procedendo nel buio senza sapere esattamente dove sta andando, Arthur Koestler, un grande romanziere, mostra come la scelta della seconda moglie, anche quella azzeccata, è stata molto simile, nel caso di Keplero, alle strategie razionali con cui è pervenuto alla più corretta descrizione dell'orbita di Marte. Quindi, così come ha intuito l'orbita di Marte, con una metodologia del tutto analoga, ha intuito più o meno razionalmente, pesando probabilisticamente le opportunità a disposizione, quale sarebbe stata la moglie che l'avrebbe accompagnato negli ultimi anni. Oddio, c'è da dire, Stefano, che È saggio, interessante e lodevole il tempo impegnato da questi pensatori nelle stilare elenchi, nel fare sottrazioni, calcoli algebrici, ma se avessero fatto qualche assaggio in giro impiegando quel tempo in maniera empirica, probabilmente avrebbero avuto più elementi concreti per valutare le loro scelte sentimentali. Assolutamente sì, ma non è che una cosa escluda l'altra. Loro tentavano probabilmente di razionalizzare una decisione che, come tutte le altre, ha una complessità forse anche maggiore, visto che le emozioni sono più coinvolte che in altri casi, e in alcuni casi è andata bene, in molti altri è naufragata questa algebra della morale. Vanessa, buongiorno. Velocemente, l'algebra dei sentimenti, lei come l'ha sistemata? Mai, io volevo... 22 anni, giovanissima, abbiamo un pubblico giovane. E niente, io 4 anni fa ho mollato il conservatorio dove studiavo canto lirico. Per a 18 anni? Sì, per un insegnante un po' poco professionale e molto emotiva. E niente, oggi invece faccio la fotografa con uno studio mio e tutto quanto. Ma lei cosa sarebbe diventata? Una grande cantante? Magari sì, non me la cavavo male, insomma. Ci faccia sentire qualcosa, la prego, Vanessa. È da 4 anni che ormai... No, ma la prego, proprio adesso, prima delle informazioni del traffico, per dare sostanza alla sua scelta, per sentire se veramente la sua insegnante ha avuto ragione a segarla dalla scuola lirica. La prego. La prego, Vanessa, qualcosa adeguato a questo tema. non so, un pezzo della Carmen. Perfetto, mi sembra perfetto. Perfetto. Ci auguriamo che le sue fotografie la portino lontanissimo nella fama e nella gioia e nella delizia. Grazie. Melog 2.0. Stavamo pensando con Stefano Morigi proprio per il calcolo delle probabilità. Voi immaginate, la nostra ascoltatrice di poco fa che ci faceva la Carmen al telefono, stava assieme ad altre persone, l'hanno sentita improvvisamente cantare. Cosa potrà essere cambiato nella sua vita? Cosa sta accadendo in questo momento? Magari stava per strada, nella metropolitana. L'hanno presa dei signori vestiti di bianco, gli hanno messo una bella camicia annodata dietro le spalle. Ha trovato un signore appassionato di bel canto, l'ha avvinghiata e l'ha portata via, o semplicemente così l'hanno guardata con commiserazione, o probabilmente già le staranno telefonando dicendo che bella è cantato e che è abbandonato questa fulgida carriera, o tutti hanno detto magari meglio ti sei messa a fare la fotografa. Che dici, Stefano? Può darsi, potremmo trovarcela nella nuova edizione di X Factor, oppure potremmo trovarcela come fotografa provetta, oppure un'altra nuova carriera che noi non riusciamo neanche a immaginare. La concatenazione degli eventi appunto andrebbe valutata avendo informazioni il più possibile pertinenti a quel contesto, e poi sta a noi dare il peso a quello. Questo è il problema di fondo, che la valutazione delle probabilità dipende molto dal peso che noi diamo alle informazioni disponibili nel momento in cui ci troviamo a decidere. Anche nel mondo classico, che davano un peso preponderante all'opera degli dei sui fatti umani, però dicevano aster inclinant non determinant, quindi sì, c'è un disegno superiore che dà una via agli eventi, però gli uomini possono metterci del loro. Possono metterci del loro, ma tutto quello che ci mettono non è mai sufficiente, no? C'è sempre qualcosa che sfugge. Fai caso, il problema della casualità è anche sconvolgente all'interno del mondo della scienza. Uno degli aspetti che rende ancora oggi, perlomeno da alcuni, invisa la teoria darwiniana dell'evoluzione è il fatto che è una teoria che ha molto a che vedere col caso, cioè del caso delle mutazioni genetiche, e mette in discussione l'idea che la natura abbia un ordine. Non, ora ha, che non tu ha un suo ordine prestabilito, ma per caso certe volte accadono. Le mutazioni genetiche sono casuali, producono degli eventi che poi la selezione o accetterà piuttosto che scarterà. Come questo... la storia dei bachi da seta messa nel bastone del missionario, ti ricordi? Ce la raccontano. Come mai abbiamo la seta? Un missionario rimette dentro il suo bastone i bachi da seta e noi abbiamo la seta. Esatto. Però tu capisci che dalle esistenze quotidiane ai massimi sistemi di cui la scienza si occupa, il problema del caso mette in discussione l'esistenza di un ordine prestabilito che, per quanto vincolante, è rassicurante. Vivere tra 0 e 1, come si diceva prima, è un'educazione all'incertezza, se vuoi anche alla tolleranza da certi punti di vista, che le cose possono essere o andare diversamente da come le abbiamo pensate. Gabriele, buongiorno. Pronto, buongiorno. Fra 0 e 1, lei come ha conosciuto sua moglie e cosa sarebbe potuto accadere se? Ma parlo io, Gabriele, da Lecco, sono io? Gabriele, sì. Ecco, no, niente, io ho avuto una circostanza assolutamente forzosa, perché è stata, diciamo, tra virgolette, imposta una serata sia a me che alla futura donna della mia vita, una serata eccezionale attraverso un'amica comune che non sentivo io da 5 anni, che aveva deciso di organizzare una serata con degli altri amici dispersi, e io venivo nella stessa situazione, diciamo, da cui proveniva anche lei, senza che io conoscessi nulla di questa donna. Avevamo delle storie assolutamente forzose e coercitive con io una donna e lei un uomo che ci avevano soggiogato psicologicamente, e ci siamo liberati, diciamo contestualmente un anno prima di quella serata lì. Quella serata io sono andato un po' così scettico, non avevo neanche tanta voglia, ma soprattutto lei non si voleva muovere da casa, era stanca, sono quelle serate che uno dice ma non... chi me lo fa fare? Per cui giro di telefonate 3-4 volte, la mia amica, questo tutto posto, mi è venuto fuori chiaramente, e assolutamente non ne voleva sapere, è andata a prelevarla con un amico comune a casa sua, dove si trovava in pigiama ormai comodamente adagiata sul suo divano, sta costretta a vestirsi. Se adesso non mi descriva tutti gli abiti, cominciando dalle scarpe, andiamo al sodo, cosa è successo? Il sodo è che quella serata lì è stata organizzata, ci siamo incontrati con queste storie uguali, ci siamo conosciuti, è nato, non so, un feeling quasi che dovevamo emendarci dalla nostra situazione e confrontarci, sta di fatto che vi siete emendati, quindi marito e moglie con due figli. E molto ovviamente quella serata organizzata, ripeto, da un'amica che da 5 anni non sentivo, se non raramente, non si sarebbe sicuramente più verificata. E se l'amica fosse stata d'accordo con la sua attuale moglie, fosse stato tutto un incastro, perché quella dice è un anno che io devo consolarmi da questo dolore, e lei dice guarda, c'è uno scapolone, un amico mio che anche lui è uscito da una storiaccia, beh fammelo conoscere, via dicendo, non sarebbe cambiato nulla, lei sarebbe lo stesso felice. Mauro? Pronto? Sì. Ah, buongiorno Tony Coletti, sono abbastanza emozionato e sono anche un pessimo comunicatore, spero di spiegarmi. Io tutto ciò che ho sentito fino adesso credo che sia un po' una sorta di, ognuno di noi vive una sorta di rappresentazione di cui siamo più o meno consapevoli, che comunque puntualmente si verifica. Io faccio un esempio, la farò molto breve. Io a casa di un amico ho conosciuto un libro dei mutamenti con prefazione di Jung, l'ho acquistato, ho letto la prefazione, questo libro dei mutamenti che viene a essere oracolo, ma oracolo non è un modo per decodificare ciò che abbiamo dentro. Io credo che delle volte noi ci troviamo di fronte ai bivi e ai trivi, però già sappiamo qual è la scelta da fare, che semplicemente va, per così dire, da fuori. Quindi, e la sua qual è stata? La mia è stata una scelta, cioè, ho fatto più scelte ovviamente. Io credo di aver scelto poco nella vita. Va bene, allora tutto il tempo è continuare a scegliere. Tiziano. Buongiorno Nicoletti. Io portavo la mia storia perché praticamente avrei dovuto compilare il questionario di Franklin per ottenere gli stessi risultati, forse. Perché nell'aprile del 2007 mi collego in chat, io fui grande frequentatore di chat negli anni passati, mi collego, conosco una ragazza, ci cominciamo a frequentare, insomma nel giro di 20 giorni ho mandato all'aria un matrimonio programmato di lì a pochi mesi, quindi chiesa fissata, ristorante, partecipazioni. Beh, si è liberato di questo fardello e si è fidanzato con la... Fidanzato con l'attuale mia compagna, con la quale convivo, e mi è cambiato tutto, ho la famiglia contro. E adesso è felice? Moltissimo. Immagini quanti staranno chattando in questo momento e penseranno, vedi quella persona con cui chatto in questo momento, si è fidanzata, si è sistemata e via dicendo. Quindi per un insieme di porte scorrevoli la sua vita potrebbe ancora cambiare un'infinità di volte. Chiudiamo con Marco. Marco. Nicoletti, buongiorno, salve, sono Marco da Milano, grazie per lo spazio. Niente, io volevo solo intervenire per dire una cosa molto piccola. Io, si è citato prima il vivere tra 0 e 1, io proprio di questo mi occupo per lavoro anche, cioè di cercare, facendo degli studi per l'azienda per la quale lavoro, un'azienda di ricerca, di codificare per quanto sia possibile cosa significhi vivere tra 0 e 1, dove 0 e 1 ovviamente nella vita di tutti i giorni o nel mondo del lavoro possono assumere... E quanto ci riesce a avvicinarsi a dei dati perlomeno che abbassino il calcolo delle incertezze, la possibilità di incertezza? Ovviamente partendo dal presupposto che non è... se è possibile determinare la probabilità che un certo evento... Quindi lei lavora per le assicurazioni praticamente? No, non proprio, lavoriamo nel mondo della ricerca, per l'industria. Ma se, dicevo, se è possibile avvicinarsi a determinare la probabilità con la quale ovviamente un evento si manifesti, non è ovviamente possibile né ovviamente pensabile pensare... di determinare la probabilità con la quale possa verificarsi un evento nel momento in cui quello di cui si cerca di... Stefano, devi chiudere in un istante, visto che questo ascoltore ci ha portato via un po' di tempo, rispetto a quello che ha detto sul calcolo delle probabilità e sull'impossibilità di determinare. La probabilità è la misura quantitativa della verosimiglianza di un evento. La verosimiglianza di un evento non esclude l'improbabilità degli eventi, quindi siamo sempre aperti a nuovi possibili scenari della nostra esistenza. Grazie a Fabrizio Intonti, grazie a Alessandro Chiappini, grazie a Stefano Moriggi, filosofo della scienza. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.